Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La sera prima della salita alla vetta, grandina, fa freddo. Durante una cena minimalista scopriamo che i nostri amici americani, super tecnologici e super attrezzati, sono un texano che si sta allenando per scalare l'Everest e un californiano di origini filippine. Sono Elisa, vivo a Viareggio, sono un veterinario igienista, lavoro all'ASL qui di Viareggio, vivo con un compagno che si chiama Paolo e siamo dei grandi amanti della montagna. Non fatevi fuorviare dall'intro di questa puntata o dalle parole di Elisa, perché è vero che si parla di montagna, ma questa storia, questo racconto, questa puntata potrebbe essere catalogata nella categoria donne più che montagna. Anzi, per la precisione, donne al vertice. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, se ancora non l'avete capito, sono le 16:08 minuti. Il programma si chiama Voi siete qui. Raccontiamo storie in questo programma. Ogni giorno ne raccontiamo una. Ieri abbiamo raccontato la storia di un ragazzo che saliva in montagna e vedeva un animale straordinariamente raro, era lo stambecco bianco. Oggi raccontiamo invece la storia di Elisa, che sale in una montagna molto particolare, che è il monte Ararat, dove qualcuno forse che ha conoscenze bibliche ricorderà, si dice esserci i resti dell'arca di Noè. Sale sul monte Ararat insieme al suo compagno e in questa ascesa, quando manca pochissimo alla vetta, lei capisce che non ce la fa a mantenersi calma e a sedare il suo desiderio di garellismo, così lo chiama lei, e raggiunge la vetta prima di tutti. Questa puntata è dedicata a tutte le donne all'ascolto che sono in qualche modo in cima davanti agli uomini. 349-238-6666. Queste sono le puntate che noi in realtà non vorremmo fare, perché già dovendo parlare di donne che arrivano prima degli uomini si fa una differenza di genere, si parla di donne, si parla di uomini e poi entrano in ballo con le menate delle quote rosa. Noi non vorremmo evitarle queste cose, perché vorremmo che non ci fosse veramente bisogno di parlare di capito, questa è ed è anche una donna. Già solo nel dire ed è anche una donna c'è già una forma di maschilismo orribile. Però noi cerchiamo di raccontare storie e cerchiamo di fare una fotografia di quello che accade in giro. Quindi, se ci sono all'ascolto delle donne che sono direttrici, ci verrebbe da dire, direttrici di un giornale, anche micro, di una banca, e quindi ha degli uomini che lavorano per lei, se ci sono donne presidente della Camera all'ascolto, Laura, stiamo parlando con te, ad esempio, ma anche, e devo dire che il gruppo qui, noi non facciamo mai non ci autoincensiamo mai, però questo gruppo qua e questa radio, solo questo gruppo e questa radio hanno due donne al vertice, due amministratrici o amministratori, aia, qua entriamo già nelle sabbie mobili, amministratori delle due AD che sono di Radio 24, Roberta Lai, e invece del gruppo Donatella Treu. Ma la finiamo qui perché non ci piace censarci troppo. Però donne che siete al vertice di qualcosa, 349 238 6666, di che cosa, come ci siete arrivati, se avete dovuto fare una gara e battere degli uomini, perché Elisa un pochettino la sua gara se l'è fatta. Tra l'altro, chi ha buona memoria può andare a scavare un pochettino. Chi ha buona memoria e chi è stato qui o ha ascoltato e seguito il live dello scorso anno in streaming in diretta sul proprio computer, Elisa se la ricorda. Perché Elisa, che è di Viareggio e ha un compagno, era venuta fin qui, avevamo letto la sua storia parlava anche lì. Le storie di Elisa, devo dire, sono caratterizzate dal fatto che parlano di montagna, ma in realtà parlano molto di altro. E la storia di Elisa era la storia di una guarigione da una malattia e il racconto era una fotografia estremamente realista sul fatto che era in vetta, guardava giù e si lasciava alle spalle quello che le era successo. Donne in cima, 349-238-6666. Questa è la storia di Elisa. Un bidone, a can, a plastic can. Niente, è circa mezz'ora che sto cercando di spiegare alla gentilissima impiegata dell'ufficio bagagli smarriti della Turkish Airline che il bagaglio che non mi è arrivato non è un normale trolley e nemmeno una borsa da viaggio. È un originale bidone da spedizione. È mezzanotte, io e il mio compagno siamo atterrati da quasi 2 ore ad Istanbul e abbiamo appena lasciato un corridoio lungo 20 metri dove una montagna di bagagli abbandonati aspetta da tempo immemorabile che qualcuno vada lì a prenderseli. Abbiamo cercato per un bel po', ma il nostro bidone sembra proprio non esserci. Niente, la tragedia si è ormai consumata. Perdere il bagaglio all'inizio di un viaggio è sempre un problema, ma quando in quel bagaglio è contenuta tutta l'attrezzatura tecnica, piccozza, ramponi, corda, scarponi da ghiaccio, bastoncini telescopici, insomma tutta l'attrezzatura indispensabile per l'unico scopo del viaggio, che è scalare una montagna, beh, il problema assume le dimensioni di una catastrofe. Noi siamo partiti da Istanbul ed eravamo diretti a un posto che si chiama Dugu Beyazit, penso che sia questa la pronuncia, che è un paesino alle pendici del monte Ararat, e dovevamo fare la scalata dell'Ararat. In un ultimo attimo di lucidità chiedo un foglio e una penna e disegno il bidone. Fornisco le dimensioni e il colore e ricevo come risposta uno sguardo fra l'incredulo e l'ironico della serie «Ma a che ti serve una roba del genere?». La ricerca termina con una ricevuta e le rassicurazioni dell'impiegata che ci dice «State tranquilli, entro domani vi spediremo il bagaglio alla vostra ultima destinazione finale, Dugu Beyazit, in Kurdistan». Ecco, meno male, adesso siamo proprio sicuri e tranquilli che non rivedremo mai più. Sconsolati prendiamo un taxi e ci dirigiamo all'hotel vicino all'aeroporto. Abbiamo poche ore di sonno prima di attraversare il famoso ponte sul Bosforo e recarci nella parte asiatica della città per prendere il nostro secondo volo, ma il solerte impiegato della reception ci avvisa che il trasferimento all'altro aeroporto di giorno può richiedere anche 6 ore. E così, dopo 2 ore di sonno, siamo già sul taxi che, con un trasferimento notturno della durata di neanche un'ora, ci porta in un aeroporto deserto. Sono le 5 di mattina, il nostro volo parte alle 10. Almeno abbiamo tempo per chiedere informazioni riguardo al bagaglio e alla compagnia aerea. Sono le 10, l'aereo parte puntuale e atterriamo in Kurdistan. Gli accordi prevedevano che avremmo trovato un incaricato dell'agenzia, che ovviamente non c'è. Usciamo, il caldo dell'agosto turco ci investe come un'ondata di fuoco. Ci sediamo su una panchina ad aspettare. Sono talmente stanca che quando il mio compagno Paolo, sfoderando lo sguardo da cucciolo abbandonato, mi dice che ha dimenticato la guida Lonely Planet sull'aereo, beh, non riesco nemmeno ad infuriarmi. L'autista si presenta dopo circa un'ora su una macchina scassata, senza alcun logo di una qualunque agenzia di viaggi e senza sapere pronunciare una parola di inglese. E siccome non c'è mai limite al peggio, per la prima volta in anni di viaggi autogestiti, in giro per il mondo ovviamente, mi viene il dubbio che questa volta forse ho proprio preso un bel bidone. E mi ritrovo preoccupata a pensare: non mi sono nemmeno registrata al sito del ministro degli affari esteri www.dovesiamonelmondo.it. Alcune ore dopo arriviamo finalmente a Dugu Beyazit, punto di partenza per la salita al monte Ararat. Siamo quasi al confine con l'Iran e oltre al nostro albergo c'è molto poco. Incontriamo la nostra guida, contattata via mail, che pur di non perdere dei clienti, ovviamente ci recupera in poche ore parte dell'attrezzatura che non ci è arrivata, che ci manca, scarpe che forse 10 anni fa avevano ancora le suole, ramponi che usava mio nonno probabilmente, bastoncini telescopici che hanno lo stesso numero di curve dell'autostrada della Cisa, ma almeno abbiamo qualcosa. Scopriamo che la nostra breve spedizione di 6 giorni per 2 persone si sta trasformando in una spedizione di 4 giorni per 10 persone. E così, il giorno dopo, conosciamo i nostri imprevisti compagni di viaggio. 4 armeni, una coppia di giovani olandesi, Chuck Norris e Jackie Chan, 2 ragazzi americani che sono la fotocopia dei famosi attori, tanto che ancora oggi ignoriamo i loro veri nomi. Con 2 giorni di trekking raggiungiamo il campo base a 4600 metri e ci rendiamo conto che il gruppo è nettamente diviso fra chi ha esperienza di montagna e chi ha totalmente improvvisato la salita. Beh, i compagni di salita sono importanti. Vabbè, a parte che il mio compagno preferito di montagna e il mio compagno anche di vita, Paolo, però sono importanti perché fanno gruppo, perché aiutano e soprattutto se sono persone competenti ti senti sempre al sicuro. Sai che se succede un problema sicuramente qualcuno una mano te la darà. La sera prima della vetta grandina, fa freddo, e durante una cena minimalista scopriamo che i nostri amici americani, super tecnologici e super attrezzati, sono un texano che si sta allenando per scalare l'Everest e un californiano di origini filippine, pediatra a Beverly Hills, amico di attori e VIP. Durante la cena Jackie Chan estrae da una bustina poco più grande di un pacchetto di sigarette una sorta di giacca che, dopo essere stata indossata, lentamente si gonfia e diventa un piumino da montagna. Deve essere monouso perché nessuna forza centripeta conosciuta potrà mai reinserirla nella sua microscopica custodia. I nostri amici armeni e olandesi hanno fatto molta fatica a salire e, viste anche le pessime condizioni del tempo, cominciamo a dubitare di arrivare in vetta. Incredibilmente, alle 2 del mattino, nel buio di una notte senza stelle, partiamo per l'ultima salita. È nuvoloso, fa freddo, almeno avessimo i nostri scarponi. La ragazza olandese si presenta con dei sacchetti di plastica avvolti sui pantaloni per proteggersi dal freddo. Uno degli armeni si carica nello zaino una bottiglia di scotch, forse per scaldarsi, ignaro del fatto che gli peserà tonnellate a queste altezze. La salita è eterna, dobbiamo continuamente aspettare i più lenti. Ogni 10 minuti siamo fermi. Saliamo completamente avvolti dalle nubi, non vediamo più in là di pochi metri. Piantiamo tutti i nostri bastoncini nella neve per ritrovare una improbabile via di discesa. Quando stiamo per imporci per tornare indietro, sperando di evitare così di lasciarci le penne, ecco che, come per magia, le nubi si aprono e davanti a noi, a poche decine di metri, c'è la vetta. Gli armeni esultano e partono di corsa verso la cima. Lo confesso, anche io sono malata di garellismo. Di genere, però, cerco sempre di dimostrare che le donne in montagna vanno più forte di tanti uomini. E anche questa volta non resisto. Accelero il passo dopo lo sguardo di intesa del mio compagno e mi lascio facilmente alle spalle i quattro omoni che, uno alla volta, crollano a pelle di leone poco sotto la vetta, dove arrivo subito dopo la guida, soffocando a malapena una risata di compiacimento. Foto di rito e riniziamo la discesa. Un caldo torrido lascia presto il posto alle nuvole. Arriva la pioggia e al campo base ci accoglie un temporale. Bisogna scendere velocemente. 1000, 2000, 3000 metri di discesa che sotto una pioggia incessante sono veramente tanti, anche per chi è allenato. Sono trascorse 16 ore dalla partenza di stanotte, quando assieme ai due americani finalmente arriviamo al pulmino che ci sta aspettando. E siamo stanchi. Mezz'ora dopo arrivano gli olandesi, distrutti. Molto, molto tempo dopo, ecco gli armeni. Attraverso i vetri appannato Paolo li guarda e sornione mi dice: questi se la ricorderanno per tutta la vita sta montagna. Ecco, la nostra spedizione termina così, con un ulteriore giorno di anticipo. Poi è tutto un rocambolesco cambio di itinerario, nuovi voli, nuovi alberghi, nuovi programmi. Alcuni giorni dopo siamo di nuovo all'aeroporto di Istanbul e il corridoio è ancora più stipato di bagagli abbandonati. E là, sotto due borse, ecco comparire il nostro bidone. Sembra impossibile, eppure è lì che ci sta aspettando. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Se i messaggi che arrivano a questo programma dovessero valere come campione statistico, il panorama sarebbe abbastanza desolante, visto che il messaggio che è arrivato dice, a proposito di donne che siete al vertice, donne che siete in cima, c'è una zona del Monte Ararat che il governo ha interdetto all'esplorazione e non si sa il perché. Io ti ringrazio dell'informazione, però riproviamoci. Se c'è una donna al vertice che ha voglia, no? Ma guardate, ma senza tirarsela, semplicemente dicendomi: io dirigo questa cosa e lavorano per me 3 persone, 5 persone, 200 persone. Donatella, lo chiedo anche al nostro amministratore delegato. Donatella, se sei all'ascolto, 349-238-6666. Roberta, anche tu. Altrimenti dobbiamo andare sul profilo Facebook del programma, dove ce n'è una, Jenny. Oddio, ma Jenny sarà una donna, Jenny, ovviamente, no? Jenny. Jenny sarà una donna, giusto ragazzi? Ditemi di sì, così sono tranquillo. È una donna. No, perché nella foto ci sono un ragazzo e una ragazza. Sono l'unica donna in un gruppo di 6 uomini. Da un anno lavoriamo a più progetti organizzativi e ogni volta quando c'è da eleggere un leader sanno che io sarò l'unica a convincerli a lavorare e a ottenere ottimi risultati. Sembra un po' coercitivo questo metodo, Jenny. Come dire, ragazzi, guardatemi. Chi è che vuol fare il leader qui? 349-238-6666. Invece, visto che una donna in cima c'è arrivata prima di tanti omoni, è Elisa, la sentiamo a questo punto. Pronto, Elisa? Pronto, ciao. Come stai? Bene, grazie. Ti ricordi di me, vero Elisa? Sì, beh, certo. No, nel senso che ci siamo incontrati anche sì. quella sera di fine giugno. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. Sì, bene. Il tuo compagno di cui parli come del miglior compagno di salita e di vita, come sta? Insomma, in questo momento ho un po' di problemi di salute, però insomma cercheremo di affrontare anche questa. Senti, sei al lavoro in questo momento? No, in questo momento sono ferma in un parcheggio all'ombra, perché qui a Viareggio si muore dal caldo al sole. Ah, beh, vedi, questa è una notizia che da qualche parte c'è il sole, nel senso che oggi c'è anche a Milano, però mi pare di capire che qualche speranza per sta primavera sta arrivando. Scusami Elisa, parliamo di questa cosa. A parte del bidone, la storia insomma è abbastanza assurda, no? Che voi perdete un bidone che, come giustamente dici, già sempre perdere un bagaglio è un problema, figuriamoci quando devi arrivare a quanti metri di altezza? Ma non era tanto alto, non è tanto alto, ragazzi, sono 5.160, ma... non è proprio... Vabbè, ti ricordo che... Non è difficile. Certo, però ti ricordo che c'è molta gente all'ascolto e anche a questo microfono che a 2.500 metri crede di essere arrivato in cima a chissà che. Quindi 5.000 metri, non c'hai nulla, non hai la tua attrezzatura e trovate questa guida che vi dà, immagino, delle scarpe che ha trovato in cantina, probabilmente. Sì, probabilmente sì. Ma sì. Soprattutto vi trovate con dei compagni di viaggio che non vi aspettavate davvero. Mi spieghi come si organizza un viaggio del genere? Nel senso che questa sorpresa dell'essere in 10 invece che in 2 e farlo in 4 giorni invece che in 6. Cioè, che tipo di viaggi sono questi? Ma senti, questo noi avevamo contattato questa agenzia via internet e quando noi facciamo queste cose qui, sai, si manda tipo scala vetta dell'Ararat e arrivano, si aprono tutta una serie di siti e questo qui ci sembrava il sito più fatto meglio, no? Poi sì. Erano stati i primi che avevano risposto anche quando noi avevamo mandato la mail, quindi si sembravano veramente efficienti e devo dire la verità che considerando il serraglio che avevamo dietro, cioè la guida è stata veramente bravissima perché ha portato tutti in cima, cioè cosa che noi non avremmo mai immaginato. Poi che guida era? Che faccia aveva? Che tipo era questo? No, era un ragazzo di là che poi abbiamo visto che viveva in un paesino proprio sperduto, che però veramente bravo. Okay. Bravo. Da cosa si capisce che una guida è brava, scusami? Cioè, da come va su, da come ti sta vicino? Perché, allora, lì per lì noi pensavamo fosse un po' matto, e probabilmente era un po' matto, però è stato bravo perché è riuscito a portare tutti su. Poi, per carità, non eravamo in condizioni di sicurezza, però dobbiamo anche dire che la montagna non impegna, cioè non è tecnicamente difficile, è solo difficile per le condizioni meteo, perché lì il tempo cambia tantissimo, perché è un cono vulcanico in mezzo a questa pianura, quindi se c'è una nuvola si ferma lì. No, quindi okay. Può esserci la grandine, la pioggia, tutto in un giorno. Cioè tutto quello che avete trovato voi, di fatto. Tutto quello che abbiamo trovato noi, sì. Senti, ma dell'arca invece nessuna traccia? No, niente, nessuna traccia. Ma non, noi pensavamo nella nostra ingenuità ci fosse tipo una sorta di museo dell'arca, qualcosa del genere. Niente proprio. Non c'era un'agenzia di viaggio, ma non c'era veramente niente. Un posto desolato proprio al confine con l'Iran, ma veramente doveva essere un posto di passaggio fino a qualche anno fa. E poi adesso ci hanno fatto un po' il business delle gite, delle escursioni all'Ararat, però... Ma quindi incontri altri gruppi che salgono, che scendono? Abbiamo incontrato altri gruppi, sì, di altre fantomatiche agenzie, poi lì c'è tutto un discorso di permessi, perché dovrebbe esserci un trekking permit che noi abbiamo pagato ma che non abbiamo mai visto, quindi probabilmente non è neanche stato fatto, perché le agenzie serie che organizzano questi viaggi dall'Italia, eccetera, così, chiedono prenotazioni di 2-3 mesi anticipatamente proprio per recuperare il trekking permit. Capito. Noi abbiamo deciso questa cosa, diciamo, all'ultimo momento, capito? E qualcosina sotto ci doveva essere, perché erano stati troppo rapidi. Sì, effettivamente un pochettino è venuto fuori. Elisa, poi ti saluto, però visto che nella seconda parte abbiamo un pezzo di intervista che avevamo fatto un po' di anni fa a Nives Meroy, che appunto è diciamo la donna che sale, anche se giustamente anche lei dice a me non interessa essere considerata una donna, io sono un alpinista, vabbè, e ha ragione lei, ovviamente. Ha ragione. Però dice una cosa molto importante, dice per me è molto importante avere un compagno di viaggio, che è anche il mio compagno di vita, che è Romano Bennett. Che cosa significa davvero poi poi ti saluto. Quanto è importante avere un compagno, anche uno solo, ma un compagno di salita con cui ti basta uno sguardo per capirsi? È fondamentale perché col compagno di salita, se poi vabbè, se il tuo compagno di vita è tutto un altro discorso, ma anche proprio un compagno, anche solo un amico fidato, a parte il discorso sicurezza, secondo me è proprio il bello del poter dividere quello che noi chiamiamo il momento perfetto. Ci sono dei momenti quando sei in montagna che te sai di fare la cosa giusta, nel momento giusto, nel posto giusto e in quel con momento la giusta. Con la persona giusta, quindi quello ti dà veramente senso alla vita, un po' come il discorso del racconto di ieri, no? Certo, dello stambecco. Elisa, ti ringrazio molto per la chiacchierata, in bocca al lupo e saluto al tuo compagno. Grazie, ciao, a presto. Grazie. Ciao, grazie Matteo, mille. Ciao. Voi siete qui. Alla bronzatura tipica dell'alpinista, Elisa, nella foto che ci ha mandato e che trovate sempre alla nostra pagina sul nostro sito radio24.it/voi siete qui, oppure accedeteci da programmi. Ed è all'aeroporto, direi, è all'aeroporto di Istanbul al ritorno, visto che ha lo zaino sulle spalle, è un tipico giubbino da montagna e tiene tra le mani il suo bel bidone che tiene tutta l'attrezzatura. Cima. Sostantivo femminile. Sommità, il punto o la parte più alta. La zona in prossimità dell'orlo che delimita una superficie piana. Figurativo, il grado più elevato, il colmo, l'apice. In nautica, estremità di una corda. Estensivo, la corda intera. In botanica, ramificazione a cima, quella che si ha quando l'apice dell'asse primario cessa a un certo punto, per varie cause, il suo accrescimento e viene sorpassato dai suoi assi secondari, o rami. Pezzo di carne ricavato dalla pancia o dal petto di bue, tagliato a forma di tasca e riempito di un trito di animelle, piselli, mollica di pane e quindi cotto in acqua con diversi aromi, specialità genovese. Etimo, latino, cima, germoglio, data, seconda metà secolo XIII. Adesso ditemi dove trovate un programma in cui si trova una parola chiave della giornata, che spesso, no, non è che non c'entri, però è tangenziale rispetto al racconto, no? Si parla di una salita in montagna, sul Monte Ara, decidiamo donne al vertice, cima, ok. Alessandra De Luca ci legge la definizione del dizionario della parola cima e si arriva alle cime di rapa, quindi sembrava precotto e preparato, come si chiama? Esatto, quella cosa lì. 349-238-6666. Le donne al vertice a quest'ora stanno lavorando, mi scrive qualcuno. Luce invece mi scrive: vale essere la prima della classe? Certo che vale, Luce, è un lavoro, no? Studiare, soprattutto alla tua età, immagino, a meno che tu abbia 45 anni e frequenti le scuole medie. Oh yes, scrive una donna, Giuliana: sono il capo, la farmacia è mia e la sto ancora pagando, i miei collaboratori sono 3. Quindi sfatiamo il mito per cui la farmacia passa dal nonno al papà al figlio, all'altro figlio. 349-238-6666. Noi già qualche tempo fa l'avevamo intervistata, la persona che stiamo per sentire parlare tra poco. Lei è la donna italiana che ha scalato 11 delle 14 vette sopra gli 8000 metri. Nel pezzo che sentirete, che è un documentario che andò in onda su questa radio ad opera di Tiziano Bonini nel 2006, giusto Tiziano? 2006. Lei parlerà di 10 vette, perché ne aveva fatte 10 all'epoca, in realtà adesso appunto sono già diventate 11. Lei spiega tutto molto bene nel pezzo che vi stiamo facendo sentire, in questo pezzo di documentario, e spiega cosa significa salire by fairy means, cioè senza ossigeno, in sostanza. C'è un testo che Harry De Luca ha scritto su Nives Meroy, in cui dice: 3 alpiniste hanno scalato 11 di quelle immensità e si avvicinano al traguardo. La più forte di loro e di tutti i tempi si chiama Nives Meroy ed è italiana. Nives Meroy spiega anche quanto è importante avere un compagno di salita, che nel suo caso è anche un compagno di vita, si chiama Romano Bennett. All'inizio di questo audio che stiamo per sentire, loro due sono in cima a una montagna e sono, credo, arrivati. Siamo qui, io e te soli. Siamo da soli sul K2, in cima al K2. Quando siamo su, siamo in due, quindi rischiamo tutti e due. Dall'altra parte però è sicuramente un vantaggio quella di soprattutto, innanzitutto, quella di vivere insieme, di avere la possibilità di vivere insieme queste esperienze. È una fortuna poterle vivere insieme. Perché non abbiamo mai avuto l'esperienza di essere separati. Cioè non conosciamo l'esperienza di una salita su 8000 da soli, dove è molto forte l'esperienza. Quindi ci sembra naturale così. Riusciamo a litigare fino intorno ai 6800 metri, poi dopo manca il fiato e rimandiamo al campo base le discussioni. Come si usava nel millennio scorso, sì, ho incominciato prima con le escursioni, poi le vie ferrate e poi sono arrivata alle arrampicate vere e proprie. Ed è lì che ci siamo incontrati, Romano ed io. Ma ci siamo incontrati in città, perché qui per andare a scuola e superiori bisogna fare 100 km, si va a Udine. Quindi si viveva giù durante la settimana e lì ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto che ci piace montagna tutti e due e abbiamo cominciato ad andare insieme in montagna. Prima Romano e io siamo stati compagni di cordata, dopo parecchi anni siamo diventati fidanzati e dopo parecchi anni che così stavamo insieme abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto andare a fare una spedizione in Sud America, però ovviamente pochi soldi, non sapevamo come riuscire ad organizzare questa spedizione, allora abbiamo pensato ci sposiamo, così abbiamo 15 giorni di licenza matrimoniale, 15 giorni di ferie. In questa maniera riusciamo a mettere insieme il mese per poter andare in spedizione. E così abbiamo fatto. Ci siamo sposati, siamo andati in spedizione in Sud America, sulla Cordigliera Blanca. Io l'ho definito un alpinismo di rinuncia, il nostro. Di rinuncia nel senso che noi saliamo senza l'ausilio delle bombole di ossigeno, saliamo senza l'aiuto dei portatori d'alta quota in montagna, e saliamo senza fissare prima dei campi, cerchiamo di salire in una maniera il più possibile leggera, essenziale, pulita. Quello che noi cerchiamo è un avvicinamento, è un confronto, come dicevano gli inglesi, by fair means, cioè un confronto onesto con la montagna, un confronto onesto con noi stessi. Noi non partiamo mai con l'obiettivo di fare il record, salire 3-8.000 in 20 giorni o salire 10-8.000. È una conseguenza naturale, cioè è una cosa che viene naturale. Per noi comunque l'alpinismo, anche adesso che siamo arrivati a 10-8.000, rimane principalmente un gioco nel senso mezzo per esplorare noi stessi all'interno di un contesto, di un ambiente. L'alpinismo è un'attività storicamente maschile, specialmente l'alpinismo himalayano. Le donne si sono avvicinate all'Himalaya solamente intorno agli anni 70 e comunque con grosse difficoltà, con meno possibilità proprio perché una spedizione ti richiede assenze lunghe da casa, quindi per una donna è sempre stato più difficile. Poi anche perché l'organizzazione delle spedizioni è sempre stata in mano agli uomini, che quindi discriminavano le donne perché, ovvio, offrono meno, o loro pensano, offrono meno garanzie dal punto di vista fisico. Le donne adesso si sono avvicinate, penso che debbano trovare una loro dimensione. E noi donne che ci avviciniamo ad un'attività che da sempre è maschile, quello che cerchiamo di fare generalmente è quello di imitare i loro modelli, i modelli maschili, senza andare invece a cercare quelle che sono le nostre caratteristiche e specificità. Forse la Nives ha un approccio diverso all'alpinismo, soprattutto himalayano, come diceva, però poi fisicamente non c'è una differenza, no? Quindi bisogna andare su, bisogna fare gli stessi gesti, però dopo nell'atteggiamento che ha rispetto all'ambiente, rispetto a quello che sta facendo, si nota la differenza. Nives Meroy e Romano Bennett in un documentario di qualche anno fa, li ringraziamo ancora. Loro sono due che hanno salito delle montagne molto alte, hanno fatto 11 dei 14.000 8.000 14 11 dei 14 8000 metri di questo pianeta. Io ringrazio quelli che, come Mariana, scrivono sono il capo della casa. Ringrazio Luce che dice ho 16 anni e frequento il terzo anno di liceo. Va bene Luce, ma soprattutto il messaggio maschilista che vince oggi è quello di Osvaldo da Napoli, che dice le donne sono tanto intelligenti da farci credere di essere emarginate. Olè, abbiamo fatto scopa. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Fabio Cantadori. La storia di oggi era di Elisa e anche lei è un punto rosso su una mappa.